Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi lunedì 3 novembre 2008 parliamo di crisi finanziaria, una crisi finanziaria di cui si è parlato già a lungo in tutte le analisi, in tutte le preoccupazioni che con la crisi finanziaria sono venute in un mondo che sembrava avviato a una crescita continua e che invece si è riscoperto con lo spettro, il pericolo della recessione alle porte. Ne parliamo con Fabrizio Galimberti. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Fabrizio Galimberti, economista, editorialista del Sole 24 Ore, oggi ha scritto, proprio per il Sole 24 Ore del lunedì, un articolo un po' controcorrente, le occasioni nascoste, gli spiragli della fiducia, in pratica il lato B di questa crisi finanziaria. La crisi c'è, è una crisi pesante, è una crisi che ha sconvolto i mercati finanziari, le grandi banche d'affari, il sistema del credito, non si sa ancora bene quanto durerà e quali potranno essere ancora le ripercussioni di questa crisi, ma già da adesso si possono cominciare a vedere alcune prospettive e indica Galimberti soprattutto anche alcune occasioni da cogliere. Non tutto il mare viene per nuocere, si potrebbe quasi dire. Ecco, quali sono queste occasioni, Fabrizio Galimberti? Beh, direi che le occasioni ci sono sia per quanto riguarda quelli che potremmo chiamare i massimi sistemi, sia per i minimi sistemi della vita quotidiana. Ecco, sui massimi sistemi io direi che abbiamo avuto modo di vedere qualche cosa che di storico. Abbiamo avuto modo di assistere allo sgretolamento di un sistema finanziario che era andato indulgendo troppo in una euforia, in una innovazione sfrenata che, come tutte le innovazioni, aveva provocato poi degli eccessi, e ci si è accorti troppo tardi che questi eccessi minacciavano di far crollare questo castello di carte. Questo castello di carte direi ora è sostanzialmente crollato e abbiamo imparato che non bisogna giocare con i fiammiferi quando siamo nella Santa Barbara, così come si era imparato quando la moneta fiduciaria era stata introdotta nella Francia del Re Sole, così come avevamo imparato altre lezioni quando nel 2001 si pensava che tutto fosse diverso da prima e la nuova internet avrebbe procurato sterminati guadagni. Ecco, abbiamo imparato che l'innovazione finanziaria nel campo della finanza cosiddetta strutturata è utile, ma è anche pericolosa e bisogna maneggiarla con cura. Ecco, questa crisi ci ha fatto leggere un manuale di istruzioni di cui non sospettavamo l'esistenza, e penso che tutto questo ci metta nella posizione di non sbagliare quando questa crisi sarà passata, come passano tutte le crisi. Ecco, e mentre ricordo Fabrizio agli ascoltatori 800 24 00 24 per le telefonate, si può forse aggiungere che si è imparato che il denaro non si fa col denaro, che il denaro si fa comunque col lavoro, con la creatività, con la passione, col valore aggiunto, non attraverso operazioni di ingegneria finanziaria, che in fondo la lezione di questa crisi potrebbe essere che la ricchezza non sono solo i debiti possono aiutare, ma se sono fatti con misura, se poi sul debito si crea altro debito che crea altro debito, allora si torna appunto alla pietra filosofale che voleva trasformare i sassi in oro, e questo non è possibile, lo insegna la storia, lo insegna la realtà, e quindi siamo di fronte a una forse a una presa di coscienza appunto con la realtà. Possiamo considerare, Fabrizio, che alcuni punti, per esempio il prezzo del petrolio, siano scesi in maniera ormai strutturale, oppure è un pendolo che potrebbe risalire tra qualche tempo? Certo, il prezzo del petrolio dunque era salito non perché avesse a che fare con la crisi finanziaria. Ecco, proprio una caratteristica del pericolo di questi mesi era stato nel fatto che in modo largamente coincidentale erano venuti al pettine tre nodi assieme: un rallentamento dell'economia americana che era iscritto nelle cose, un'economia che era andata crescendo per troppo tempo, troppo velocemente, indebitandosi troppo, e questo aggiustamento americano era uno dei fili di questa crisi. Poi c'era stato un problema delle materie prime, anche questo legato a una fame di petrolio, di metalli, di derrate alimentari che veniva da un accesso all'economia di mercato e a una forte crescita di miliardi di persone nell'Asia superpopolata, e tutto questo aveva cambiato l'equazione fondamentale domanda e offerta nel campo delle materie prime, sia industriali che alimentari. E infine c'è stato quello di cui abbiamo appena parlato, che questa crisi finanziaria, da euforia, da eccessi, da incapacità di comprendere i rischi di una innovazione sfrenata. Ebbene, per quanto riguarda il prezzo del petrolio, e questo diciamo, non so se considerarlo un massimo sistema o un minimo sistema, ma certamente è qualche cosa che ci aveva addolorato finanziariamente nell'anno passato, e bisogna ricordare che il prezzo del petrolio oggi si è dimezzato. Non si è ancora dimezzato il prezzo della benzina alla pompa, ma almeno per quanto riguarda la direzione andiamo nella direzione giusta di una riduzione di questo prezzo, che porterà un po' più di conforto al nostro potere d'acquisto. E stanno anche calando i prezzi, come sappiamo, delle altre derrate alimentari, dal grano al burro al latte, e quindi da questo punto di vista io credo che possiamo considerare i risultati come acquisiti, perché questi prezzi prima erano stati gonfiati da una bolla. Ecco, esito a usare il termine speculazione, perché quando si dice speculazione si pensa di solito a qualche malvagio individuo che trama nell'ombra per far soffrire i comuni mortali. Era stata una bolla in cui il mercato pensava che il prezzo domani fosse più alto, perché era stato più alto ieri rispetto all'altro ieri, e quindi questo aumento di prezzo acquistava una vita sua e continuava fino a che a un certo punto non ci si fosse resi conto che si erano anticipati i prezzi del 2030 a oggi, e quindi bisognava tornare indietro. Ecco, ora siamo tornati indietro, il prezzo si è più che dimezzato, non solo nel caso del petrolio ma anche nel caso di molti altri metalli e anche nel caso di alcune derrate alimentari, e quindi da questo punto di vista ci sarà un sollievo all'inflazione che sta calando rapidamente. Ecco, in questo senso non si può peraltro dimenticare che il prezzo della pompa non si dimezzerà, perché gran parte del prezzo, il 70%, è composto da imposte, e le imposte sono fisse. Mi pare che lo Stato, gli Stati anzi in tutta Europa, forse in tutto il mondo, non hanno intenzione di ridurre le imposte sui carburanti, e quindi i cali che ci sono stati in questi ultimi giorni sono stati cali significativi. Probabilmente c'è spazio per ulteriori cali, e qui il mercato dovrebbe fare la sua parte, e l'attenzione dei consumatori anche sugli altri fronti sarà importante, proprio per scegliere quelle case produttrici, quelle aziende produttrici che risponderanno prima agli impulsi esterni di ribasso delle materie prime. Sentirei una telefonata. Roberto da Firenze, buongiorno. Buongiorno, volevo commentare questi commenti, queste cose sul mercato. Mi sembra che il mercato sempre più vale solo per una parte sola, cioè per la parte più debole della società. In America ormai alcuni economisti parlano di stato bancomat per le grandi imprese, i grandi gruppi. Lo stiamo vedendo negli Stati Uniti, lo stiamo vedendo anche qua, con i soldi pubblici che vanno all'Italia, che vanno alle banche, che andranno alla Fiat, che andranno all'industria in crisi, e i soldi che per lo più vengono in buona parte da chi lavora poi non vanno per chi è più in difficoltà, che sono quelli che lavorano. Questa secondo me è un po' l'ideologia che ci è arrivata dagli Stati Uniti, che là sta collassando, tanto più che l'ascesa di Obama è perché in qualche modo, anche se non direttamente esplicitamente, ribalta un po' questa ideologia. Qui ancora non ci siamo, ma siamo, come dire, vittime di questo. Penso agli studenti nelle scuole, stanno in qualche modo più o meno istintivamente sentendo questo, vedono soldi pubblici che vanno ai grandi gruppi e vedono le risorse che diminuiscono nella scuola. Al di là dei dettagli, al di là di tutto il resto, questo mi sembra che sia sempre più evidente. Una domanda di fondo, quella di Roberto da Firenze, è il momento in cui il mercato si sta appannando, in cui lo Stato sta entrando prepotentemente, una domanda che ovviamente richiederebbe una lunga discussione, fa parte anche di questo la polemica non nuova sul fatto che si tenda a pubblicizzare le perdite e a privatizzare gli utili, però c'è anche un problema di fondo che è quello di consentire al sistema di mantenere la sua forza. In fondo anche lo Stato, anche il potere pubblico è un prodotto del mercato, è un prodotto della scelta dei cittadini che si organizzano in una società appunto statale proprio per rispondere ad interessi collettivi, quindi in questo senso lo Stato fa parte del mercato. Fabrizio Galimberti. Ma io direi che è comprensibile che quando ci sono interventi di questa fatta si parla di cifre astronomiche, di centinaia e centinaia di miliardi di dollari, centinaia e centinaia di miliardi di euro, e è comprensibile che qualcheduno dica qui si salvano le banche e non si salvano i poveretti. Io direi che bisogna però riflettere sul fatto che questi soldi non sono soldi a fondo perduto, si tratta di garanzie, si tratta di partecipazioni, di acquisti di titoli e si tratta di operazioni di ingegneria finanziaria che potranno alla fine costare molto, non costare niente o addirittura far guadagnare lo Stato a seconda di come si svolgeranno le modalità del salvataggio, a seconda del fatto se queste banche saranno in futuro risanate. Ci sono molti precedenti che inducono all'ottimismo, quando furono salvate per esempio le banche norvegesi o le banche svedesi, alla fine il costo per lo Stato fu o limitato oppure ci fu addirittura un guadagno. L'Alstom in Francia fu salvata dai poteri pubblici e lo Stato poi la rimise sul mercato guadagnandoci, la Chrysler nel 78 fu salvata dal governo americano, il quale si acquisì però dei warrant che poi alla fine rivendette guadagnandoci su, quindi non è che il contribuente necessariamente ci va a perdere in queste cose. E poi naturalmente bisogna tenere conto soprattutto del fatto che quando si stanziano dei fondi per questi salvataggi lo si fa per evitare dei guai peggiori. Ecco, grazie Fabrizio, devo interromperti un attimo, chiedere un attimo di pazienza a te e agli ascoltatori in linea, abbiamo le notizie sul traffico. Dietro la notizia. Sì, buongiorno, ben ritrovati ai nostri ascoltatori, a Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore. Risponderei subito a un paio di messaggi SMS. Non abbiamo detto che sono diminuiti i prezzi di pane e pasta, abbiamo detto che ci sono le condizioni perché diminuiscano questi prezzi. Sono diminuiti i prezzi della benzina alla pompa, chiunque può controllare, ci sono attualmente prezzi tra 1,2 e 1,3, mentre qualche settimana fa erano superiori agli 1,5. Ci sono anche qui degli spazi per ulteriori riduzioni dei prezzi e quindi i consumatori devono stare attenti a cercare i prodotti più convenienti e questo aiuta anche il mercato a funzionare. Abbiamo in linea Elisa da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. La mia domanda è semplice, io dico, visto che devono salvare le banche, ci sono dei finanziamenti per salvare le banche, perché lo Stato non se le acquista e poi rivenderle in tempi più tranquilli, forse fare anche un utile lo Stato stesso, no? Grazie, la domanda è molto precisa, infatti in qualche caso gli stati, prima citava il caso Alstom, Fabrizio Galimberti, in Francia hanno acquistato le imprese e poi le hanno rivendute. Fabrizio Galimberti. Ma io direi che quando ci sono questi salvataggi così massicci non bisogna pensare che ci sia veramente un'alternativa, cioè che lo Stato ha dei soldi, li potrebbe dare, non so, ai cittadini per ridurre le tasse o per aumentare gli stipendi dei dipendenti pubblici e invece di fare questo decide di fare salvataggio. Ecco, questi salvataggi sono nell'interesse non solo delle banche ovviamente o di altre società finanziarie, ma sono nell'interesse di tutti, perché se non fossero fatti tutti ne soffrirebbero attraverso una recessione, attraverso una un arresto del circuito banca-economia che alla fine farebbe tutti più poveri. Quindi è un male minore quello che si sceglie quando vengono fatti questi salvataggi. Salvataggi che, come dicevo prima, però alla fine rappresentano solo una temporanea iniezione di fondi che potranno in futuro essere recuperati o non recuperati a seconda di come andrà a finire questa crisi. Ci sono dei precedenti incoraggianti che, come dicevo, ci dicono che in crisi precedenti alla fine i contribuenti non sono stati danneggiati da queste operazioni di ingegneria finanziaria. Anche perché, se posso aggiungere, i poteri pubblici, lo Stato non è molto spesso un grande sapiente gestore di iniziative che dovrebbero aspettare i privati. Basta pensare a come è stata gestita l'Alitalia in questi ultimi anni, che è stata gestita dallo Stato, e quindi è stata una compagnia che è arrivata sull'orlo del fallimento, mentre altre compagnie di nazioni analoghe, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, gestite invece con una logica privatistica, hanno fatto utili, continuano a fare utili, anzi si propongono come acquirenti della stessa Alitalia. Quindi in questo senso il finanziamento pubblico ad iniziative private è stato una cosa che ha portato a conseguenze negative per queste iniziative. Vittorio da Monza, buongiorno. Buongiorno. Ascolto con molta attenzione questa discussione. Comunque io ho 75 anni e devo dire la verità che ho seguito come ex manager finanziario questa crisi. Mi meraviglio che tutti si strappino i capelli. Comunque, 9 aprile del 97, incombe l'apocalisse per colpa dei derivati. Poi nel 97, ne leggo un altro recente, 16 ottobre 2007, c'è una bolla speculativa che può travolgere il mondo, di un certo economista francese, Didier Couton. L'altro giorno ancora ne arriva un altro, la bolla dei derivati sale a 58.000 miliardi. Ora mi chiedo, ma ci rendiamo conto come potremmo frenare questa bolla globale? L'analisi storica delle crisi passate lascia intendere che le banche centrali sono impotenti e incapaci di gestire la massa monetaria in un periodo speculativo e al massimo possono limitare l'ampiezza della crisi finanziaria che segue il crack. Ora io mi chiedo, ma siamo certi che siamo riusciti a contenere questa bolla? Perché era una tragedia annunciata. Io quando ho letto questi titoli sono uscito dalle borse di colpo, pronti contro termine, ma non sono per niente tranquillo. La ringrazio di questa testimonianza. Indubbiamente c'erano state in passato più volte anche degli allarmi anche sui giornali. Io ricordo che anche su Sole 24 Ore negli anni scorsi abbiamo scritto degli articoli preoccupati sulla stabilità del sistema finanziario per le tante situazioni che si erano create. Ma quando il sistema non crede neanche appunto ai segnali di pericolo, perché pensa che la crescita possa essere continua, allora veramente come negli ultimi casi vediamo che il mercato si è quasi avvitato su se stesso cercando una crescita continua, ma poi questa appunto è impossibile. Prima o poi ci deve essere la resa dei conti, e difatti c'è stata, ma in fondo la storia della finanza è fatta di crisi, è fatta di riprese, ma complessivamente ha creato comunque un benessere complessivo per la società, e questo non dobbiamo dimenticarlo. Sentirei Antonio da Milano. Buongiorno, grazie. Potrei parlare. Sento una cosa, io vorrei solo dire una cosa. Cioè, questo governo qua sta facendo aiuti, anzi, una volta voleva fare aiuti anche voleva fare salvacalcio, voleva salvare anche delle società di calcio dove giravano tanti di quei soldi che... Cioè, dico, nel mondo dove girano tanti soldi il governo vuole aiutare a salvare queste società o queste cose su bolle di sapone, perché cioè, le banche si sa vendevano, cioè, erano tutte cose gonfiate. Però quello che voglio dire sul lavoratore dipendente, che sono 10 anni che non vede una briciola di aumento, la corrosione dell'inflazione che gli corrode il suo stipendio, il governo cosa sta facendo? Questo governo e anche un po' quello di prima, cosa state facendo? Beh, io la ringrazio della domanda, siamo in conclusione. Secondo me sta facendo molto poco, perché sarebbe il caso in questa fase di ridurre la pressione fiscale, di ridare alcuni incentivi agli acquisti, di rimettere un po' di fiducia nell'economia. Lascerei comunque la parola a Fabrizio Galimberti. Sì, Dietro, Ministro, il problema cruciale del basso livello dei salari non è solo un problema del fatto che non crescono, c'è anche un problema che proprio il loro livello nel confronto europeo in potere d'acquisto è un livello basso, e dietro questo c'è un problema di bassa produttività del sistema economico italiano, che a sua volta risale a dei fattori strutturali di debolezza dell'apparato produttivo, un apparato produttivo che però messo di fronte a problema di sopravvivenza si sta ristrutturando. Ci sono tanti segnali incoraggianti, non ultimo la forza delle esportazioni italiane, che rivelano come ci si stia spostando verso segmenti di valore aggiunto più elevati. Ecco, su questo dato positivo io devo purtroppo toglierti la parola, il tempo è tiranno. È un dato positivo di una realtà italiana che comunque è molto migliore di quanto spesso la si descriva. Certamente è giusto lamentarsi, è giusto sottolineare i dati negativi, ma non dimentichiamo che l'Italia comunque continua ad essere un grande paese industriale, un paese che produce e che si confronta con il mondo intero, che ha delle aziende di elite e che sono dei primatisti mondiali sotto forma proprio aziendale. Proprio ieri la Ferrari ha vinto, anche se ha perso il titolo mondiale, però ha vinto quello costruttori. Ecco, cerchiamo di valorizzare i dati positivi, e con questo vi do appuntamento a domani.